Io non li rubo tanto, anche perché Giovanni ha detto tante cose bellissime che noi condividiamo in pieno. Però io sono intanto molto emozionato di essere qui stasera insieme a Giovanni e a Peppe, perché la storia di Radio Auto è molto legata alla storia del Cartella, perché noi siamo nati circa 11 anni fa, poco prima del C8 di Genova. E poi quell'esperienza bellissima e traumatica che ci ha fatto anche tanto male, abbiamo conosciuto tantissime persone. Tra le persone che abbiamo conosciuto i ragazzi di Reggio con cui ci siamo visti diverse volte durante i campeggi in Oponte. È un legame che poi abbiamo rinsaldato durante Forum, dove sono venuti diverse volte a Cinisi, tanta gente è venuta a Cinisi, tanti calabresi sono venuti a Cinisi durante Forum del 9 maggio. E tra l'altro quest'anno una compagna di Roma, che è Consuelo Cagnati, che ha realizzato uno spettacolo bellissimo sulla storia di Peppino Impastato, che è Malacarne, ci ha chiamato, perché veniva a Cinisi a fare questo spettacolo, ci ha chiamato e ci ha detto, noi vorremmo venire, però ci sono diversi costi, noi vorremmo fare un po' cercare di guadagnare qualcosa per evitare di fare niente indietro, cioè tu conosci le realtà che ci potrebbero ospitare quando noi veniamo. Quindi loro sono venuti a Cinisi il 7 maggio, e il 9 maggio sono venuti a fare lo spettacolo qui al Cartella. Non so quanti di voi, perché non in questo posto, non so quanti di voi ci fossero in questo spettacolo. Tra l'altro, noi il 7, prima che i compagni di Roma andassero via, io ho consegnato un po' di materiale di Radio Auto, tra l'altro un bellissimo libro su Peppino Impastato, che è l'unico libro che racconta, che contiene gli scritti originali di Peppino, quindi praticamente il libro si intitola Lunga la notte, edito dal Centro Sociale, dal Centro Siciliano di Documentazione Peppino Impastato, e raccoglie ovviamente tutti i documenti originali di Peppino, che la famiglia Impastato, tra l'altro, molti di questi documenti li ha consegnati a Umberto Santino. E questo libro ovviamente noi l'abbiamo dato a Consuelo e l'ha consegnato a Peppe. Ci hanno detto che il libro è stato in furore ovviamente con l'incendio. È lo stesso bene, quindi ovviamente è una delle cose che ha perso il Cartella. Ecco, noi siccome siamo abituati a vivere di ricordo e di memoria, e noi, visto che Giovanni parlava di Panterani, che parlava di resistenza, e noi purtroppo 2 anni fa ci siamo resi protagonisti di una vicenda molto singolare, cioè noi non ce la siamo sentiti semplicemente di fare una manifestazione e andare a Pontaranica. Noi siamo andati a Pontaranica con tanti compagni di Bologna e Venezia che tenevano lo striscione di Radio Auto, e abbiamo inondato Pontaranica di cartoline, che sono queste cartoline qua, che pensavamo non ci servissero più, perché pensavamo che il sindaco fosse talmente furbo che alla fine praticamente la targa la lasciasse per Peppino, e quindi praticamente non eravamo più con noi. Quindi il sindaco ha deciso il 5 giugno di dimettere, di titolare questa biblioteca alla fine a questo padre sacramentino, e quindi ha tolto la targa a Peppino e noi abbiamo ristampato le cartoline. Nel 2010 e nel 2011 io ne sono arrivate circa 7.800, mi ho fatto un piccolo calcolo, più migliaia di mail. Noi le abbiamo ristampate, però siccome c'è questa occasione, è la prima occasione nazionale tra l'altro, quindi noi siamo qua a Reggio Calabria come Radio Out e consegniamo questo pacco di cartoline che serviranno anche a fare autofinanziamento al Cartella, e che praticamente sono già intestate, perché c'è la memoria di Peppino, non si cancella, c'è Peppino che strappa una bandiera della Lega, e c'è l'intestazione del sindaco, basta mettere da dove provengono. E poi ovviamente una scritta molto, che per noi è molto importante: Peppino vive nelle nostre lotte, vive nelle lotte di tutti i compagni che l'hanno conosciuto, ma non solo, anche dei compagni che fanno resistenza nei luoghi di lavoro, nei luoghi di lotta, nei quartieri popolari. La cosa ovviamente esiste un modo nuovo di fare resistenza, perché Giovanni parlava di Peppino figlio di quella che è stata le lotte degli anni 40. Io vado indietro, ancora indietro. Peppino è stato forse uno dei primi partigiani antimafia, così come mamma Felicia dall'Ampi è stata definita partigiana antimafia, perché è l'unico esempio di donna del sud a cui viene riconosciuto il titolo di partigiana. Ecco, noi avremo bisogno oggi di tantissimi nuovi partigiani, ecco perché ovviamente questa esperienza qua ci può servire anche a costruire modelli nuovi di resistenza e di lotta nei territori. E ringrazio Giovanni anche per la sua profonda testimonianza che è venuto a dare qui in un posto liberato probabilmente da speculazioni mafiose, interessi politici particolari, che in questo momento sta cercando di resistere di fronte a tutto quello che accade attorno a noi, e non è facile, e noi ce ne rendiamo conto. Quindi, oltre alle cartoline, visto che il libro era l'unico libro che ci serve, non più, noi abbiamo portato la nostra maglietta del decennale, che è la maglietta che l'anno scorso abbiamo stampato al forum, e che praticamente porta, come oltre al nostro logo, 10 anni di lotte, 10 anni di resistenza, una scritta, che è la scritta dello striscione che portiamo in giro in tutta Italia ormai da 10 anni, che è contro la mafia e Putini c'è solo rivoluzione. Questa la consegna a Peppe, è un regalo che Radio Auto vuole fare a questa nuova resistenza insieme alle cartoline. E poi ce ne sono un bel po' che sono disponibili, quindi chiunque vuole contribuire alla nostra campagna, che ufficialmente inizia oggi, quindi faremo arrivare da tutta Italia cartoline a questo sindaco Aldegani, che ha voluto togliere questa targa, e poi siamo pronti, come l'abbiamo fatto 2 anni fa, a tornare di nuovo a Pontaranica per vedere cosa bisogna fare, perché a questo punto c'è una biblioteca che non è più intestata a Peppino. E credo che, al di là dei simboli, perché a noi non piacciono molto i simboli, generalmente i simboli spesso servono per creare gli eroi, e Peppino a me mi sa molto di fascista come parola. Io preferisco la parola non mi riferisco a te, Giovanni, io preferisco la parola militante, la parola compagno, la parola resistente, perché questa figura è una figura che sta con gli altri, sta insieme, lo è qualcuno che sta sempre sopra, e Peppino non è mai stato sopra. Peppino ha lottato sempre con i compagni, con Giovanni, con tutti coloro che accisi dicevano no alla mafia, e poi non erano poi così tanti, ma c'erano tante donne che hanno fatto il collettivo femminista, tanti compagni che hanno fatto il collettivo antinucleare, il circolo musica e cultura, c'era Radio Auto, c'erano gli indiani metropolitani, per esempio ci sono le bellissime foto di Giovanni e sua moglie ritratti vestiti dagli indiani metropolitani, con le cose che ci pensate un po' cosa fossero queste cose accisi negli anni 70. Erano delle cose veramente dirompenti. E quindi ecco, come penso che il Cartella in questo quartiere, in questa cittadina così bella, noi siamo venuti il 26, e a noi è piaciuto tanto questo quartiere, ma questa borgata marinara a ridosso del mare, così come questo quartiere secondo me è un quartiere che probabilmente conosce e sa quello che è stato fatto qui e quanto è importante questo spazio per il quartiere, e probabilmente qui invece è interessato a non farlo sapere o a nascondere quello che viene fatto qua, ha trovato come unica arma quella dell'idiozia di venirlo a incendiare. Ecco, io credo che siccome le memorie non si cancellano e uno spazio come il Cartella non può essere cancellato da un incendio. Incendi, dice Giovanni, effettivamente sono molto di moda. Cerchiamo di trovare nuove forme di lotta, e Peppino ne ha trovate tante negli anni 70, perché è chiaro che di fronte a tutto quello che sta accadendo, o le troviamo noi, oppure rischiamo di rassegnarci, non per citare Gramsci, ma per citare Peppino in passato. Peppino non si è mai rassegnato, Peppino ha sempre lottato, lo hanno anche scritto nel manifesto politico di Radio Auto, che noi pubblicheremo a breve, che è il manifesto di Radio Auto, che è anche sul libro Lunga la notte, ossia erano tre le aree che spingevano Radio Auto: l'informazione e la controinformazione, lo spazio politico e lo spazio autogestito, lo spazio sociale autogestito, quello di creare nuove forme di socializzazione che dal basso lottano contro la mafia, contro il fascismo, contro il degrado, contro la privatizzazione dei beni comuni. Ecco, tutto questo è una zona in cui praticamente non ci dobbiamo confrontare, perché altrimenti rischiamo di morire. E di fronte a quello che c'è attorno a noi, è chiaro che non possiamo permettercelo. Ecco perché la memoria non si cancella. E Peppino non vive nelle nostre lotte, vive nelle lotte di tutti quanti coloro che da Reggio Calabria alla Valsusa, da Pontaranica sino a Cinisi, riescono a costruire percorsi di resistenza sociale comune. E questo, noi di questo ne siamo convinti. Quindi oltre, cioè non basta semplicemente la solidarietà politica, la solidarietà economica, ci vuole una solidarietà realmente di contributo reale a costruire percorsi nuovi. E io ringrazio, cioè, Peppe per averci invitato, chi ha organizzato l'iniziativa, quindi anche in questo senso noi non amiamo molto, io personalmente, sono stato consigliere comunale, non amo molto i partiti politici, perché forse hanno perso il contatto con la gente e con la realtà. Però bisogna ricostruire dal basso anche percorsi nuovi di politica nuova, anche nei partiti e soprattutto nella società civile. Perché quello che stiamo costruendo è qualcosa che daremo poi ai nostri figli e ai nostri nipoti, e non ce la possiamo permettere. Quindi ringrazio il Cartella, credo che non c'è bisogno di dirlo, però cioè, è chiaro che tutti quelli che sono qua stasera hanno un compito, quello di riuscire a costruire nel più breve tempo possibile un nuovo Cartella, possibilmente qua, perché è un posto bellissimo. E in questo noi dalla Sicilia e da Palermo, da Cisi, faremo tutto per fare in modo che questo possa accadere. Grazie a tutti e sono molto felice, è bellissimo.